Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Oggi parliamo di ricerca, di quella ricerca che continua a combattere per trovare soluzioni e terapie per malattie che mettono in scacco la vita di chi ne è affetto. Vogliamo oggi in particolare affrontare una malattia che negli ultimi mesi ha focalizzato su di sé non solo l'attenzione dei ricercatori, degli specialisti, nonché naturalmente dei pazienti, dei loro familiari, ma anche dei media. Parliamo di sclerosi multipla. Vogliamo parlare insieme a voi del molto e del buono che si sta muovendo in questo campo sotto il profilo scientifico, terapeutico, di ricerca e che si può tradurre anche sul piano assistenziale. Stanno per essere immesse infatti sul mercato delle nuove terapie di cui abbiamo già parlato in un'altra trasmissione che porteranno concreti miglioramenti ai pazienti. Oggi però vogliamo soprattutto fare chiarezza sul dibattito che questa malattia ha generato nella comunità scientifica dopo la pubblicazione di uno studio di un ricercatore italiano che avremo ai nostri microfoni, che avrebbe individuato un nuovo meccanismo in grado di influenzare questa malattia. Ma andiamo per ordine. Prima di parlare di cause e di terapia potenzialmente utili, cerchiamo di capire di che malattia stiamo parlando. Cronica, imprevedibile e talvolta invalidante. La sclerosi multipla è una delle più importanti malattie del sistema nervoso centrale. È una delle più frequenti cause di disabilità nelle persone giovani. L'esordio, infatti, è tra i 15 e i 50 anni, ma per lo più si manifesta tra i 20 e i 30. Colpisce più le donne che gli uomini, con un rapporto di 2 a 1. Ogni 4 ore nel mondo una persona riceve una diagnosi di sclerosi multipla. In tutto sono oltre 60.000 le persone colpite dalla SM. Il 50% di queste è giovane. Una malattia dal forte impatto sociale. 2 miliardi e 400 mila euro è il costo sociale annuo della sclerosi multipla. Sono 2,5 milioni le persone colpite in tutto il mondo. E adesso saluto i miei ospiti, do il benvenuto al professor Giancarlo Comi, presidente eletto della Società Italiana di Neurologia e direttore del Dipartimento di Neurologia al San Raffaele di Milano. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. In linea con noi abbiamo il professor Paolo Zamboni, presidente della Società Internazionale per le Malattie Neurovascolari e direttore del Centro delle Malattie Vascolari dell'Università di Ferrara. Buongiorno professor Zamboni da New York. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a voi. E in linea con noi abbiamo il professor Battaglia, presidente della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla, una fondazione creata e voluta dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, quindi l'Associazione dei Pazienti. Buongiorno professore, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi tutti. Professor Comi, ci spiega che danni provoca la malattia sulle strutture del sistema nervoso centrale? Quali sono le cause riconosciute? Beh, questa è una malattia che provoca una serie di lesioni a livello del cervello, del midollo spinale, dei nervi ottici. Sono lesioni di natura infiammatoria. E abbiamo già tutta una serie di conoscenze specifiche e sappiamo di certo che la malattia è legata a una disfunzione del sistema immunitario, che è quello che determina queste alterazioni progressive contro le guaine mieliniche, che in pratica i linfociti, le cellule bianche del sangue, che sono di solito a guardia del nostro organismo, scambiano la mielina per un nemico, per un virus, per un germe, e la attaccano per toglierla di mezzo. Ovviamente, ahimè, invece è una parte positiva, impazziscono. Noi sappiamo anche che questa è una malattia in cui sono in gioco dei fattori ambientali e dei fattori genetici. Ad esempio, se abbiamo due fratelli che sono identici, cosiddetti monozigoti, due gemelli perfetti, la probabilità che uno si ammali se un altro ha la malattia è di circa un terzo, il che vuol dire che di per sé il patrimonio genetico, che è uguale in questi due gemelli, è importante ma non sufficiente. E infatti ci sono anche dei fattori ambientali, alcuni di questi sono già noti, ad esempio il fumo è un fattore di rischio importante, la carenza di vitamina D è un fattore importante, ma verosimilmente sono fattori importanti anche alcuni aspetti di natura infettiva ambientale. Ovviamente nel questo ambito ci sono fattori noti e fattori ancora non noti e qui ovviamente si scrivono tutta una serie di altre potenzialità. In base al fatto che è una malattia infiammatoria, ovviamente noi per cercare di riuscire a frenarla dobbiamo cercare di bloccare questa infiammazione che si esprime con delle ondate, no? Molte volte queste ondate ci rendono assolutamente coscienti di quello che succede perché provocano dei disturbi che sono percepibili e visibili. Altre volte invece non ce ne accorgiamo, soltanto se facciamo una risonanza magnetica e guardiamo dentro la testa della persona, vediamo tutta questa dinamica di malattia. Sappiamo anche che la malattia nelle fasi iniziali è molto attiva, ma mano a mano che la malattia evolve nel tempo, e purtroppo ciò corrisponde anche a un progressivo accumulo di disabilità da parte dell'ammalato, questa infiammazione tende a decrescere e invece si accentua l'aspetto degenerativo della malattia, per il quale, fra l'altro, non è ancora del tutto chiaro quali siano i meccanismi in gioco. Professor Battaglia, abbiamo capito qual è il danno che si produce a livello del sistema nervoso centrale, ma questo come si traduce a livello di qualità di vita del paziente? Che cosa succede ad una persona che riceve una diagnosi di questa malattia che viene definita cronica, imprevedibile e invalidante? Diamo un significato concreto a questi tre aggettivi, un significato che mi sembra negli ultimi tempi si sia in parte modificato, o meglio attenuato, grazie anche ai progressi della ricerca. Sicuramente parlare di malattia cronica bisogna dare un significato. Il significato è che ci si ammala in giovane età, ci si ammala spesso tra i 20 e i 30 anni e si convive con la sclerosi multipla per tutta la durata della vita. Sicuramente in questo senso che ha spiegato appena spiegato il professor Comi è imprevedibile, perché ci sono dei momenti in cui la malattia attacca e quindi arriva a più infiammazione, più danno, e dei momenti in cui regredisce e la forma più frequente è proprio quella d'attacchi e remissioni. Quindi l'imprevedibilità sta nell'avere degli attacchi che poi lasciano il posto alle remissioni, e le forme di malattia sono assolutamente diverse. Abbiamo delle forme benigne, abbiamo delle forme in cui sono pochissimi gli attacchi e pochissimi i danni, fino ad arrivare alle forme più gravi, e in questo senso si può interpretare la parola invalidante. Oggi, e questo è importante dirlo, oggi le persone che possono arrivare a un'invalidità grave sono soltanto una parte delle persone con sclerosi multipla. La maggior parte può invece vivere una vita piena e soddisfacente, facendo i conti ogni tanto con questi attacchi e con un minimo di disabilità. Però oggi è cambiata la realtà della malattia rispetto a ieri, perché si sa comunque rallentare la progressione della malattia e quindi non raggiungere più nella maggior parte delle persone l'invalidità grave che si raggiungeva una volta. Professor Zamboni, lei è stato il protagonista di un dibattito che è uscito anche dall'ambito più prettamente tecnico-scientifico e che ha raggiunto il grande pubblico, anche quello non toccato direttamente dalla malattia, poiché lei ha proposto un'ipotesi che potrebbe influenzare il modo di pensare e di intervenire su questa malattia. In pratica, nell'aggravare la sclerosi multipla sarebbero in gioco fattori anche di tipo vascolare. Ci aiuta, professore, a capire meglio da dove è partito? Beh, certo, il mio contributo, io intanto partirei da questo. Come avete sentito dall'eccellente sintesi del professor Comi, questa è una malattia multifattoriale, dove i meccanismi patogenetici non sono completamente chiari, sono largamente sconosciuti. Sì. Io ho semplicemente scoperto una sindrome vascolare che si chiama CCSV, insufficienza venosa cronica cerebrospinale, starebbe a significare, in pratica una difficoltà a causa di malformazioni delle principali vene che si trovano di fuori del cranio a drenare il sangue cerebrale. E mi sono accorto in questo percorso che molto frequentemente questa condizione si associa alla sclerosi multipla. Per cui la mia proposta è che fra i vari fattori un importante contributore sia proprio questa malattia vascolare, perché avete sentito, professor Comi, che abbiamo una componente infiammatoria, e questa difficoltà di drenaggio, per quello che noi sappiamo che studiamo questo tipo di patologie da più di 30 anni, è un cronico infiammatorio stimolo che persiste per l'intera vita e che può anche dare, e questo è quello che accade in altri tessuti, quindi non mi sorprenderei che accada anche nel sistema nervoso centrale, è un importante contributore alla fuoriuscita di cellule infiammatorie e di cellule immunitarie da quello che è l'alveo circolatorio a quello che è l'alveo tissutale. Quindi diventa anche una ricarica alla popolazione infiammatoria e immunitaria, che poi, come avete sentito, porta con dei meccanismi, quindi con alla demolizione della mielina e anche alla neurodegenerazione, quindi sostanzialmente... Quindi professore, se ho capito bene, quindi contribuirebbe a questo stato infiammatorio? Ma questo sono molto certo. No, anche no, perché... e sono io che le faccio la domanda, cioè sì, l'insufficienza venosa cronica cerebrospinale è un contributore, diciamo, a quello che è l'aspetto infiammatorio e immunitario della patologia. Facciamo finta, allora. È probabilmente un aggravatore anche di questo. Quindi se l'infiammazione la così immaginiamo come un fuoco, mettiamoci questi ingredienti, professor Comi, professor Zamboni, mi dica lei, quindi questa, la CECSV è uno degli ingredienti che accendono il fuoco? Beh, mette degli altri ceppi nel camino sicuramente. Sì, ma io direi, questo è sicuramente un'ipotesi, noi Zamboni lo sa, ne abbiamo discusso e ripeto, è molto importante che abbiamo come ricercatori sempre la mente apertissima a ogni idea, e questa è un'idea che ha un suo interesse. Ovviamente quello che qui ci sono alcuni dati di fatto da cui non dobbiamo partire. Noi sappiamo che, perché le sono state individuate, che ci sono delle cellule che sono proprio attive direttamente contro queste parti della mielina. Sappiamo che questa azione infiammatoria è promossa a livello sistemico, cioè non avviene dentro il cervello ma è nel sangue che questo si muove. Quindi l'aspetto interessante della teoria del professor Zamboni è che questa alterazione del deflusso potrebbe essere un elemento che facilita l'estravasazione di queste cellule, che peraltro proprio adesso viene studiata in modo molto approfondito da un paio di centri al mondo. Proprio adesso si è visto che proprio il motivo per cui queste cellule escono dal sangue e entrano dentro il tessuto nervoso è perché quando si arrabbiano contro il tessuto nervoso, impazziscono e si arrabbiano, esprimono sulla propria superficie delle molecole che si chiamano di adesione, che le fanno attaccare alla parete di vasi e quindi a bucarle. Quindi qui la domanda che noi ci poniamo, che è fondamentale, è quanto e se questa CCSVI abbia una funzione nel facilitare questa uscita, perché se così fosse ovviamente c'è un ruolo patogenetico, ma questo, come succede sempre in medicina, è stata un'osservazione interessantissima fatta da Zamboni, ma che ovviamente adesso è proprio sottoposto a una serie di valutazioni. Ovviamente, come tutti noi, ognuno quando produce un'idea crede nella propria idea, certo. Se no non faremo questo mestiere. È compito di tutti noi di essere molto severi con le idee nuove, perché ovviamente devono essere vagliate, devono essere messe a confronto in modo molto oggettivo. Vorrei sentire tra poco il professor Battaglia per capire anche soprattutto il ruolo e la posizione della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla, ma una domanda sorge spontanea, professor Zamboni, professor Comi, quali sono gli esami che permettono di individuare l'insufficienza venosa cronica cerebrospinale, meglio conosciuta oggi come CCSV? E qual è il loro grado di affidabilità? Professor Zamboni, parlando di qualche cosa che ha a che fare con il vascolare, mi viene da fare la domanda a lei. Sì, sì, ma è corretto. Possiamo anche sentire il parere anche di Comi Battaglia. Allora, diciamo, inizialmente noi abbiamo utilizzato molto, anche per esplorare persone in modo non invasivo, un sistema eco Doppler, un protocollo eco Doppler un pochino lungo, indaginoso, ma che mostra delle anomalie. Quindi sicuramente quello è un punto centrale. Ha lo svantaggio che è molto operatore dipendente e quindi può portare allo sviluppare falsi negativi e falsi positivi, sì, a seconda della curva d'apprendimento che ha l'operatore. Quindi quanto più l'operatore si è dedicato a questo, quanto più per forza di cose diventa attendibile. Comunque sicuramente l'eco Doppler è uno strumento ideale. Va male invece quello che è lo strumento principe della ricerca, dell'indagine nella sclerosi multipla, che è la risonanza magnetica, e perché lei è molto obiettiva ma purtroppo non è funzionale. E allora noi adesso abbiamo un sistema che è un sistema però invasivo, che è un po' il gold standard, che è la flebografia col catetere. Questo è il panorama che c'è oggi. La ricerca qui si deve sviluppare moltissimo, a mio avviso, perché dobbiamo trovare un sistema non invasivo, che sia il meno operatore dipendente possibile. Certo. Che su questo il mio laboratorio e altri laboratori state lavorando. stiamo lavorando su questo e spero, diciamo, per l'anno di poter dare un test che sia più affidabile, chiamiamolo più obiettivo di quanto non sia l'eco Doppler. Si può lavorare anche sul migliorare la risonanza magnetica con delle tecniche che sono dette di fusione d'immagine, quindi avere una risonanza magnetica che utilizza dei flussi eco Doppler in modo da poter avere un esame fuso che permette di avere il meglio e di tralasciare il peggio rispettivamente dell'uno e dell'altro, e quindi diciamo anche la parte diagnostica dal punto di vista vascolare sta avendo un grandissimo impulso e spero che questo aiuti ancora di più a chiarire le cose e a dare delle risposte. Professor Battaglia, quindi la ricerca al lavoro, una ricerca seria e competente per dare soluzioni ai pazienti. Sicuramente la persona con sclerosi multipla deve avere delle certezze, perché quando gli viene prospettata un'ipotesi, quando gli si può ipotizzare un ruolo causale o concausale nella malattia che si ha, sicuramente la domanda della persona con sclerosi multipla è: cosa posso fare? Cosa posso fare per intervenire? Posso veramente cambiare il decorso della sclerosi multipla? E questo è un aspetto importante. Quindi dal punto di vista della persona con sclerosi multipla è necessaria ricerca, è necessaria ricerca seria e competente, è necessaria la individuazione della modalità di utilizzare oggi l'eco Doppler in maniera corretta, in maniera diffusa, di avere persone formate per fare questi esami. Sicuramente in Italia ci sono persone che hanno già lavorato e sanno lavorare sulle vene, cosa non così frequente, però bisogna aumentare la formazione in quest'ambito, e soprattutto la persona con sclerosi multipla vuole sapere, perché questo è un tema che penso valga la pena poi di toccare, se questa CCSV è caratteristica solo della sclerosi multipla o se si trova anche in altre condizioni, nei sani o in altre patologie, perché questo è un aspetto fondamentale per capire se si trova nella sclerosi multipla, quanto è specifico e quanto la persona con sclerosi multipla abbia o possa avere questa malformazione e in quali forme, e se in quali forme e quando se bisogna intervenire. Questo credo che sia un aspetto importante da approfondire. Che sviscereremo, come si dice, subito dopo la nostra pausa. Vi aspetto insieme al professor Paolo Zamboni, al professor Giancarlo Comi e al professor Battaglia. Tra poco. E siamo tornati insieme, oggi parliamo di sclerosi multipla insieme al professor Giancarlo Comi, al professor Paolo Zamboni e al professor Battaglia. Professor Comi, in qualità di presidente eletto della Società Italiana di Neurologia, la società che si occupa, no, di malattie come la sclerosi multipla, riguardo a quanto ci ha raccontato il professor Zamboni, anche questa necessità, no, di creare, di lavorare per trovare degli esami che permettono di fare una diagnosi obiettiva, non operatore dipendente. Qual è la vostra posizione? Cosa pensate? Sì, vorrei innanzitutto sgombrare da un dubbio: non è che noi facciamo diagnosi di sclerosi multipla con questi esami. Con questi esami che il professor Zamboni ha descritto, facciamo una valutazione del circolo refluo venoso, che è tutt'altra cosa. La diagnosi di sclerosi multipla la fa il neurologo con ben altri strumenti. No, qui il problema è quello che ha detto il professor Zamboni. Innanzitutto è chiaro che il gold standard, cioè quello di dire l'esame che non fallisce, è la venografia, che però è un esame invasivo, non possiamo pensare di immaginare di usarle in migliaia e migliaia di persone, è troppo rischioso. Quindi da una parte c'è la necessità di standardizzare molto questa valutazione, perché qui le osservazioni sono molto variabili e alcuni studi hanno osservato questa patologia nel 100% dei malati e nello 0% dei sani, in altri si sono divisi a metà, 50-50, e in altri nessuno, né nei malati né nei sani. Ovviamente ognuno può dire che in un caso siamo stati troppo sensibili, cioè lo strumento è stato fin troppo sensibile e ha rilevato troppo, in altri troppo poco. Questo succede spesso in medicina. Di fronte a questo, l'unico modo per essere risolutivi è di avere degli studi ben organizzati. In questo momento sono appena rientrato dal Canada, ci sono almeno 5 mega studi in corso, e quindi noi ci aspettiamo, come Società Italiana di Neurologia, di chiarire quale sia il contributo se un contributo c'è da parte di questa alterazione nella patogenesi della malattia, sapendo, come ho detto prima, che sappiamo già molte cose, attenzione, non è che siamo di fronte a malattie in cui non sappiamo cosa succede, no, certo. Sappiamo un sacco, non per niente abbiamo delle medicine che sono in grado di ridurre del 70-80% la gravità di questa malattia, ne abbiamo già parlato, ne parleremo ancora, quindi qui si tratta di capire qual è il ruolo specifico da attribuire a questo, per evitare ovviamente che magari i malati non capiscono più bene quale sia il ruolo da attribuire e quali posizioni prendere di conseguenza. Professor Battaglia, i malati, i familiari dei malati si rivolgono all'Associazione Italiana Sclerosi Multipla e alla Fondazione per essere indirizzati, per saperne di più. Quali sono le domande, lei le ha anticipate, i dubbi dei malati alla luce di quanto ci siamo detti e del dibattito che si è visto, si è letto anche nei giornali, in trasmissioni televisive? Sicuramente la prima domanda è una domanda fondamentale sulla quale abbiamo già detto ripetutamente negli interventi precedenti, cioè queste malformazioni hanno significato e sono presenti anche nei sani? Perché questo è sicuramente un aspetto che è da valutare, perché ovviamente chi ha la sclerosi multipla può essere paragonato ai sani in questo senso. Se ci sono in altre malattie neurologiche potrebbe essere un qualche cosa legato a dei meccanismi intrinseci a varie malattie del sistema nervoso. Se invece c'è una quota di persone, tante o poche, che hanno questa malformazione ce l'hanno esclusivamente loro, quindi se c'è una differenza tra la presenza, la prevalenza di queste malformazioni nella sclerosi multipla rispetto ai sani e rispetto alle altre malattie neurologiche, quella è la fetta, la quota di persone che sono sicuramente interessate. E la domanda delle persone con sclerosi multipla è quanto è grande questa fetta, se ci sono io dentro o non ci sono dentro, cioè e questo sicuramente l'esame di screening diventa importante. Certo. Professor Zamboni, lei ci aiuta sicuramente anche col professor Comi a dare una risposta a queste che sono le domande legittime su cui si interrogano i familiari e soprattutto i pazienti? Le linee delle risposte corrette sono state esattamente poste sul tavolo in modo perfetto sia da Comi che da Battaglia. Diciamo che io la categoria della persona normale con la CCSVI non l'ho mai incontrata nella mia vita e ho esaminato qualche migliaio di soggetti. Rispetto, diciamo, l'opinione di chi può avere trovato e mi piacerebbe confrontarmi, perché secondo me molta parte del lavoro può essere fatta confrontando i dati e i sistemi di valutazione, ma questo diciamo che è ancora un lavoro che sta procedendo in questa fase, quindi sì. Non è che possiamo dire. Se diciamo fosse presente questa insufficienza vascolare anche in un numero rilevante di soggetti normali, potremmo pensare che questo è un contributore. Se invece ci fosse proprio un cut-off molto netto fra la presenza nei malati e l'assenza nei sani, potremmo pensare a qualcosa di più, ma questo diciamo è un lavoro che proprio questi studi che sono in corso e altri studi, perché qui io sono a New York, si sta parlando di aprire dei registri che possono rapidamente portare a conoscere cosa accade in 10-20 mila soggetti, quindi tutti questi lavori di cui stiamo parlando adesso sicuramente nei prossimi anni saranno in grado di fotografare con una precisione maggiore di quella che stiamo dicendo. Quindi oggi, al momento, professor Zamboni, mi viene in mente in autostrada quando ci sono, stiamo lavorando per voi, no? Questi cartelli. Noi che cosa potremmo scrivere su questo nostro cartello in attesa che arrivino questi dati? Ma quello che possiamo scrivere è che sicuramente abbiamo una malattia vascolare e dobbiamo capire che contributo dà alla sclerosi multipla. Questo può essere fatto con questi sistemi di neuroepidemiologia che sono stati ricordati, sì. Molto importante anche a livello di base, cioè riuscire a capire per esempio queste molecole di adesione, se i parametri emodinamici alterati. Mi parla difficile adesso, professore. Sì, allora facciamo così. Scusi, ma io voglio io devo capire così. Che il sangue scorre male, sì? Posso provare a vedere se i meccanismi dell'infiammazione possono essere scatenati dal sangue che scorre male. Ho capito adesso. E questa è un'altra cosa molto importante. Ma terza cosa, che probabilmente è quella che interessa di più al malato, sì, è riuscire a capire quando è solamente all'interno di studi controllati, questo lo voglio sottolineare per bene, quando io dovessi rimuovere questo fattore, questa chiusura delle vene dilatandole, quali parametri sia clinici dal punto di vista dei sintomi e anche dei parametri di risonanza io posso variare o preferibilmente ancora migliorare rimuovendo questo problema vascolare. Questo è un'indagine che può essere fatta attraverso uno studio che preveda che alcune persone vengano operate, sì, e altre persone non vengano operate, e poi diciamo valutando in un modo completamente cieco e indipendente che cosa succede nelle due popolazioni. Professor Coni. Quindi, sì, no, Zamboni voleva finire, aveva concluso. No, per carità, no, sì, ma posso intervenire. No, io volevo proprio innanzitutto fare chiarezza su due aspetti. Primo, l'intervento su questa patologia, qualunque ruolo avesse questo, e ripeto, questo va del tutto ancora definito, e su questo credo che tutti abbiamo capito, siamo tutti d'accordo, non è certo in grado di fare regredire i disturbi che uno già, perché purtroppo ho visto delle sciocchezze terribili dette in alcuni programmi. Faccio un esempio molto semplice: se mio figlio in motocicletta si è spaccato la testa, non è che se io gli vendo la motocicletta la sua testa torna a posto, non se la spaccherà più una seconda volta. Se si è salvato non rischierà di perdere la vita, ma che io pretenda, togliendo uno dei fattori, anche rilevante se lo fosse, posso far tornare indietro un danno del tessuto nervoso, solo una persona che non è competente, e non sto parlando ovviamente di Zamboni, può veramente fare questa affermazione, perché il danno nervoso, ahimè, purtroppo è irreversibile. Quindi questo è un primo concetto. Un secondo concetto fondamentale, è questo: noi purtroppo, e qui forse è quello che ci differenzia dal professor Zamboni, noi riteniamo che in questo momento, e questa è la posizione ufficiale della società, in questo momento, in assenza di chiarezze assolute sulle relazioni e sul tipo di ruolo che ha questo tipo di condizione dei vasi, non si debba procedere a interventi. Purtroppo sta succedendo che in vari posti, e questo è veramente, devo dirlo, mette veramente il paziente a rischio in debito. Se proprio questo uno lo deve fare, lo faccio, come ha detto Zamboni, studi altamente controllati vuol dire non che uno controlla quello che succede, ma deve essere controllato contro qualcosa per poter avere una definizione ben precisa, e non lasciati a interventi e non aprire viaggi della speranza che si traducono invece in viaggi economicamente interessati. Andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, la viabilità, e poi insieme di nuovo al professor Zamboni, al professor Battaglia, prendiamo tra poco. E siamo tornati insieme. Professor Zamboni, volevo chiederle proprio una precisazione. Questa operazione, cioè disostruire questa vena, che cosa porterebbe? La risoluzione del problema o, come dice naturalmente il professor Comi, l'ha sottolineato, vorrei stare proprio su questo aspetto, il danno che la malattia ha prodotto non si recupera più. Che cosa fa in sostanza questa operazione? Quali vantaggi può dare? Ma guarda, io la metto in un modo molto semplice. Questa non è una cura della disabilità acquisita, cioè non puoi pensare che aprendo una vena la disabilità che hai accumulato scompaia d'incanto, questo non è vero. Può essere una importantissima prevenzione per non accumulare ulteriore disabilità e probabilmente per migliorare qualche sintomo orfano di terapia, delle terapie attualmente disponibili, come l'affaticamento cronico, che è un sintomo molto disabilitante. Se fossimo in grado di provare questo, e io lo vorrei provare su un binario non propedeutico, ma su un binario parallelo alle ricerche che ha prima ricordato Comi e anche Battaglia, sarebbe già, secondo me, un contributo molto, molto, molto grande che potrebbe dare, diciamo, la scienza vascolare alle neuroscienze. Professor Comi, Io ho citato prima e ho ripetuto, ogni affermazione deve essere documentata in modo indiscutibile, quindi Perfettamente d'accordo ovviamente con Zamboni, non preveniamo la disabilità, potremmo sicuramente l'obiettivo, qualora avesse un ruolo patogenetico, cioè avesse un ruolo nella malattia, certo, di evitare che la situazione peggiori ulteriormente, che poi possa avere un impatto su alcuni dei fenomeni già presenti, come lui ha citato Zamboni, la fatica o meno, questo è appunto, ma lui l'ha appena detto adesso, è uno dei punti che dovremo chiarire in futuro. Il concetto che io però, su cui, ma insomma è bene che ci sia un po' di differenza di vista, sennò sembrerebbe che ci fossimo messi d'accordo, è che io ritengo che occorra prima chiarire l'aspetto patogenico, se c'è un rapporto di che natura essa sia, e poi pensare, però mentre dire, nel mondo Zamboni, non tutti lei, la pensiamo allo stesso lei modo. Lei vorrebbe un procedere a binari paralleli. Sì, perché ci sarebbe anche uno scambio di informazioni che secondo me aiuta più che sempre senza, all'interno di sentieri controllati, cioè certo, non interventi selvaggi fatti senza capire nulla. Ecco, interventi selvaggi, professor Zamboni, prendo proprio spunto dalle sue parole per fare una domanda al professor Battaglia. Professore, ci sono persone, ci sono malati che vanno all'estero, si sottopongono a degli interventi con la speranza appunto di essere guariti, insomma, di essere liberati da questa malattia, una sorta di alzati e cammina. Professore. Sicuramente quello che ha appena detto il professor Zamboni, quello che ha detto il professor Comi è chiaro ed è stato ripetuto in tutte le sedi. Non affidiamoci a persone inaffidabili, soltanto rincorrendo una speranza che può invece tramutarsi in un risultato negativo. Quello che è importante oggi è sapere che c'è molta ricerca, come è stato già sottolineato. E la fondazione è molto attiva. Come Fondazione Italiana Sclerosi Multipla ci siamo impegnati a sostenere da una parte lo studio epidemiologico italiano, saranno 1200 persone con sclerosi multipla confrontate con 400 controlli sani e 400 persone con altre malattie neurologiche, proprio per vedere quanto sono presenti queste malformazioni, quindi uno studio epidemiologico, ma altrettanto riteniamo che sia importante quando è stato valutato ovviamente la presenza della malformazione, valutare attraverso studi controllati, quindi questi studi sperimentali clinici, vedere se c'è e qual è l'effetto eventuale sui sintomi, perché questa è la risposta da dare alla persona con sclerosi multipla, quando se bisogna intervenire e quando si interviene che cosa ci si può aspettare, altrimenti oggi di fronte a questa proliferazione selvaggia di interventi fatti fuori da studi controllati non diamo certezza alla persona, anzi facciamo correre dei rischi. Noi la prima cosa che vogliamo è tutelare le persone con sclerosi multipla. Infatti, da un rischio. Io credo che al centro di ogni dibattito si debba fare l'interesse del malato. Io chiuderei, abbiamo proprio meno di 3 minuti, uno a testa. Qual è la raccomandazione che vi trova concordi? Professor Comi, professor Zamboni e chiudiamo col professor Battaglia, se volete questa sequenza. Professor Comi. Beh, chiaramente tutto deve essere fatto con estrema attenzione, con tutta l'apertura mentale, non dimenticando che in questa malattia oggi abbiamo delle cure estremamente efficienti, non distogliamo la persona dall'attenzione che deve essere totale alla propria malattia, al seguire le proprie cure in modo assolutamente, assolutamente perfetto. Oggi siamo in grado di controllare la malattia nell'80% dei casi, quindi questo è il primo diktat. Poi manteniamo aperte tutte le capacità di esplorare altre potenzialità, questa è una di quelle da esplorare, ma in modo oggettivo, scientifico e non su base emozionale. Non facciamoci guidare, qui non stiamo discutendo di una presa di posizione ideologica o politica, qui parliamo dell'interesse del malato che è al centro di tutto. Professor Zamboni. Beh, quello che diciamo a me piacerebbe moltissimo è poter creare dei gruppi multidisciplinari che esplorano queste ricerche. Quello che è stata la mia difficoltà molto grande, devo dire, in questi anni è stata proprio la difficoltà di travasare di quello che può essere il mio background scientifico o in generale le mie conoscenze sulle emodinamiche, sui meccanismi infiammatori di pertinenza vascolare all'interno di quella che è la sapienza invece di chi si occupa di sclerosi multipla e di malattie neurodegenerative. E sarebbe invece molto auspicabile poter avere anche una ricerca di base, non dico una ricerca immediatamente applicativa, in cui i rispettivi background potessero dare il meglio, perché probabilmente saremmo in grado di creare un modello che aiuterebbe tantissimo poi le generazioni future. professor Battaglia? Credo che sia importante dire alle persone con sclerosi multipla che c'è un grandissimo impegno di tutta la comunità scientifica e di tutte le professionalità della comunità scientifica che stanno lavorando sicuramente per capire l'importanza e il peso di questo problema nella sclerosi multipla, sicuramente per cercare di affinare la diagnostica, perché anche questo è un aspetto, e anche fare ricerca di base, ma soprattutto le persone devono sapere che di fronte a qualunque ricercatore e per ovviamente l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, la Fondazione, ma credo per tutti coloro che si occupano di questo campo, la persona con sclerosi multipla è al centro. E perché è al centro? Sappiamo che lo è perché dobbiamo dare una risposta concreta, corretta e in tempi brevi, perché questo è l'impegno che ha tutta la comunità scientifica, in tempi brevi dare una risposta. Ringrazio i miei ospiti, vi auguro una buona giornata, a domani da Nicoletta Carbone. Essere e benessere.